Accompagnati dalle note della Passione secondo Matteo di Johann Sebastian Bach, vi proponiamo ora una riduzione radiofonica del Processo a Gesù di Diego Fabbri, un testo rappresentato per la prima volta nel 1955, scritto dopo una lunga gestazione tra il 52 e il 54. L'idea nacque dal processo politico che un gruppo di giuristi anglosassoni aveva realmente fatto nel 1933 a Gerusalemme e che si era concluso con l'assoluzione di Gesù. Da questo spunto Diego Fabbri iniziò un'indagine serrata ed emozionante su una società che aveva perso la speranza della salvezza, la fiducia nei propri valori, soprattutto la fiducia nella condivisione e nell'amore, rifugiandosi nell'individualismo e nell'edonismo. Questo dramma teatrale è diviso in due tempi con un intermezzo, una scena che in teatro si presenta semplice, a sipario alzato. I personaggi hanno non casualmente nomi biblici, Elia, Rebecca, Sara, Davide, e si presentano loro stessi agli spettatori, tra cui normalmente è nascosto qualche attore che successivamente interviene direttamente nell'azione scenica annunciando la messa in scena di un processo a Gesù, una specie di sacra rappresentazione che cerca di scoprire se Gesù fosse innocente o colpevole, condannato ingiustamente o meno. Si aggiunge poi un giudice occasionale e tutti sembrano ripetere parti prestabilite. Alcuni si mettono alla difesa, altri all'accusa. Un dibattito serrato e polemico, tanto da far supporre qualche personale implicazione dei personaggi. Tutti sono ebrei, quindi tutti implicati nell'antico processo a Cristo. Piano piano vengono chiamati poi a deporre le persone direttamente coinvolte: Caifa, Pilato, Maria, Giuseppe, alcuni discepoli come Pietro, Giovanni e Giuda. Tutti attori che interpretano una parte, ma nello stesso tempo autentici personaggi che difendono un ruolo, una scelta, una posizione pro o contro Gesù. Dopo l'intermezzo si rivela il profondo dramma che lega Sara e Davide e c'è un dialogo aperto e coinvolgente con il pubblico. Intervengono un sacerdote, un intellettuale, una cosiddetta bionda e poi una povera donnetta. Ognuno dichiara i propri motivi dell'adesione a Gesù o del proprio profondo odio. La conclusione è la domanda che vale per tutti: è chi è per voi Gesù di Nazareth? Questa riduzione radiofonica è curata da Paola Storini, che recita insieme a Gesuina Maccari, Antonio Ceccato, Giorgio Ceron, Maurizio Mattiazzo, Annalisa Comellato, Giampaolo Marchiori, Antonella Stefanon, Giovanna Toniolo e Roberto Torrisi. Buon ascolto. Signore, signori, buonasera. Rispettabili ascoltatori, stasera noi celebreremo il processo a Gesù di Nazareth. Ci domanderemo: Gesù di Nazareth era innocente o colpevole secondo la legge giudaica? Fu o no condannato ingiustamente? Siamo qui per sapere quel che accadde lassù, sul Monte Calvario. Cosa accadde veramente? Quella crocifissione fu soltanto una dolorosa crudeltà umana o invece una colpa ben più grave, smisurata, che in qualche modo ci segue? Per cercare un po' di verità ho messo assieme questa presentazione. Come avvennero i fatti allora, i fatti di Gesù di Nazareth? Perché la naturale cattiveria degli uomini si è concentrata con tanta assiduità proprio su di noi ebrei? Perché? Qual è il popolo che abbia avuto oltre 6 milioni di morti nell'ultima guerra come li abbiamo avuti noi? E badate bene, morti più non sui campi di battaglia ma nei luoghi di tortura. Perché è accaduto? Perché accade questo? Come avvennero i fatti, allora? In quel tempo regnava in Israele il tetrarca Erode Antipa, ma chi governava il paese era il procuratore romano Ponzio Pilato. Noi ebrei aspettavamo da secoli, secondo la promessa dei profeti, il Messia, il Liberatore. Fu in quel tempo che Gesù di Nazareth comparve tra il popolo. Mi potreste chiedere quale fu questo tempo? Ci tengo a dichiarare subito che non abbiamo difficoltà alcuna ad accettare i fatti così come li narra il Nuovo Testamento. Non abbiamo motivo di dubitare della loro materiale autenticità. Di che cosa viene accusato Gesù di Nazareth? Il Talmud babilonese, libro per noi veritiero, così nota: Gesù di Nazareth, prima della festa di Pasqua, fu appeso alla croce perché con la sua magia aveva sedotto e sviato il popolo di Israele. Ora ascolteremo Caifa. Volete spiegare esattamente che cos'era il Sinedrio? Il Sinedrio era la suprema assemblea della nazione. Il sommo sacerdote, come capo dell'intero sacerdozio, la presiedeva. Gli anziani rappresentavano l'aristocrazia e i grandi proprietari. Il partito dei farisei era rappresentato dai suoi dottori, che per tradizione si chiamavano scribi. Erano, per così dire, gli esperti di tutte le questioni politiche, civili e criminali. In poche parole rappresentavano la legge civica. Praticamente il Sinedrio aveva tutti i poteri, tranne quelli di eseguire le pene di morte. Noi eravamo considerati alleati dei Romani, e per questo i Romani ci lasciavano una certa autonomia. Non amavano immischiarsi troppo nelle nostre faccende, specialmente in quelle di carattere religioso. Quando parlate dei Romani, intendete parlare di Ponzio Pilato? Sì, di Pilato. Pilato, prima della crocifissione di Gesù di Nazareth, aveva già eseguito sentenze di morte pronunciate dal Sinedrio per delitti di impietà o comunque a carattere religioso. Sì, più volte, senza difficoltà alcuna. Fu proprio per questo che non sapemmo spiegarci la sua opposizione quando lo invitammo ad eseguire la sentenza per Gesù di Nazareth. Erano sorti in quegli anni molti liberatori, molti profeti e anche qualche falso messia. Si trattava di impostori o di esaltati, di profittatori o di fanatici. Erano, come ho detto, profeti e messia falsi. Però mi preme precisare, perché ci si renda ben conto del particolare stato d'animo in cui si trovavano i sacerdoti. Erano in uno stato d'animo non solo di profonda diffidenza, ma di crescente preoccupazione e di aperta opposizione nei confronti di questi mistificatori, in buona o in mala fede che fossero. Capisco dove volete arrivare, ma vi domando, queste apparizioni sempre più frequenti, come dite voi, di messia, di profeti sia pure falsi, non vi misero in allarme sul desiderio crescente che il popolo doveva avere del vero liberatore, del vero messia? E non vi accorgevate che più che sopprimere qualche fanatico, in fondo innocuo, mortificavate la fede viva del vostro popolo? Quando in mezzo a un popolo si sente parlare di miracoli e di profeti, veri o falsi che siano, vuol dire che ce n'è sete. E guai allora chi glieli nega tutti. Guai! Il punto è questo: saper stabilire il confine tra fede, l'impietà e l'impostura. Quando avvertiste che il caso Gesù era più grave degli altri? Abbastanza tardi. Lo lasciammo predicare indisturbato per quasi 2 anni. Niente ci spingeva ad intervenire. Era una predicazione pacifica. Non ci apparve nemmeno pericolosa da principio. Una predicazione che adunava tanti ascoltatori, non la considerasti pericolosa? È vero, gli ascoltatori erano tanti, ma chi capiva il vero senso di quelle parole? Nessuno, o quasi nessuno. Sì, ascoltavano, ma non capivano. Come spiegate allora il crescere dei seguaci? Le moltitudini lo seguivano. Era un seduttore. Che cosa volete dire con seduttore? Un uomo che trascina con sé Gesù. Aveva il potere di portarsi dietro la gente e qualunque cosa dicesse, qualunque cosa facesse, gli credevano, perché incantava, che è molto di più. Ce ne accorgemmo anche noi quando ci fu davanti. Vi dico che incantava. A nessuno di voi allora venne il dubbio che questo Gesù di Nazareth potesse essere veramente il vero Messia proprio per questa sua straordinaria facoltà d'incanto? No, non avemmo mai il benché minimo dubbio. A quel tempo io sapevo già chi fosse Gesù di Nazareth, figlio di un falegname e di una umile donna di nome Maria, e non era certo l'origine che le scritture profetizzavano per il Messia. Ad un certo punto lo facemmo seguire, durante le sue peregrinazioni, da nostri confidenti. Cominciammo allora a misurare la gravità del pericolo. In che cosa consisteva questo pericolo? Fatti però, lasciate stare il seduttore. Provocava il disordine, il più pericoloso dei disordini. sovvertire apertamente la legge mosaica, non più dente per dente, ma il perdono delle offese, non più la liberazione dall'oppressore, ma dal peccato, non più il castigo per l'adultera, ma la remissione della colpa, perché, diceva, chi di voi è senza colpa? E l'uguaglianza, per la prima volta si sentì annunciare che tutti gli uomini erano uguali, tutti. Come poteva provocare disordine tutto questo? Credeva, ecco il pericolo nuovo, credere in un mondo diverso, nuovo, ecco il disordine. Non è comunque a questo disordine che si riferisce l'imputazione, attività sovvertitrice. Proprio questa. Voi stesso avete citato il Talmud, aveva sedotto e sviato il popolo di Israele con le sue magie. Eppure dovettero esserci anche dei disordini, se è vero che fu necessario l'intervento del procuratore romano. Ci furono certamente anche quei disordini e nessuno nega che il procuratore non abbia avuto il suo da fare. Ma per la verità, quei disordini non furono provocati direttamente da Gesù, semmai provocati per causa sua, ma non da lui. Qui si deve essere esatti e veritieri. Ascoltiamo il procuratore romano, Ponzio Pilato. Tenete presente che io non sarei ebreo. Non ebbi a lamentare alcun disordine che gli si dovesse imputare. Si può dire anzi che noi ci accorgemmo di questo profeta soltanto negli ultimi giorni. E forse, senza volerlo, questo profeta nuovo serviva al nostro scopo, che era di mantenere l'ordine costituito. A chi cercò, una volta, di metterlo nei guai con una domanda insidiosa, rispose con «Date a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio», che nella sua chiarezza mi pare, scusatemi, una risposta più romana che giudaica. Foste proprio voi a metterlo a morte. Si domandi a Caifa chi provocò la sommossa intimidatoria in piazza. Chi mi forzò la mano portandomi a convalidare con i miei poteri esecutivi una condanna a morte pronunciata dal Sinedrio? Chi? Io fui tirato in ballo soltanto in quell'episodio culminante. L'interrogatorio serve a noi, non a loro. Perché non sospettarono nemmeno dal momento che questo Gesù si manifestava in modo così sorprendente e dava certi segni e colpiva certi gesti? Fino ad oggi si era sempre evitato di far partecipare al dibattito personaggi come Maria, Giuseppe, lo stesso Gesù, perché l'interrogatorio di questi personaggi venerati da tutto il popolo cristiano avrebbe potuto, non dico offendere, ma forse semplicemente urtare o anche semplicemente indisporre la sensibilità di qualche ascoltatore. State bene a sentire. Figlio, perché ci hai fatto questo? Tuo padre ed io siamo così angosciati, ti abbiamo cercato dappertutto. Ma egli rispose, perché vi preoccupate tanto di me? Non sapete che devo curare le cose del padre mio che sta nei cieli? Quanti anni aveva quando accadde questo? 12. Accadde quando andammo tutti e tre a Gerusalemme per la Pasqua. E invece predicava nel Tempio, come un bambino prodigio, dimentico di voi. Vi eravate già accorta che era un bambino prodigio il vostro Gesù? Oh, non era davvero come tutti gli altri. Quanto sarebbe stato più facile il mio compito se Gesù fosse stato come gli altri. Che spiegazione trovaste a quel che era successo nel Tempio di Gerusalemme? Nessuna spiegazione. La sapienza di mio figlio, ancora bambino, era un mistero. E chiedo che venga qualcuno a rispondere a nome di Giuseppe. Giuseppe, volete confermare se la promessa che legò a voi Maria come sposa contemplava anche il vostro impegno, assunto liberamente, di custodire e proteggere in casa vostra una vergine? Lo confermo. Io fui contento di proteggerla e di viverla accanto. Il suo sguardo, il suo sorriso bastarono al mio amore. Parlateci dell'evento, Giuseppe. In quel tempo dovetti assentarmi da casa per dei lavori nel porto di Cafarnao. Era la vigilia della giornata festiva quando mi camminai verso casa e arrivai che annottava. Mi accorgo che Maria se ne sta immobile a capochino entro l'ombra che l'albero stampa per terra in quella gran notte di luna. Lei disse subito, Giuseppe, avvicinati. Fu proprio con queste parole che mi accolse, è vero? Sì, tutto si è proprio avverato. Che cosa si è avverato? Sto per avere un figlio. Pensai alla gioia con cui avevo accolto il nostro patto d'amore pur di poterle vivere accanto. E nei momenti di dolore mi ripetevo: non è possibile. Poi la stanchezza mi vinse e mi prese il sonno. Lì, in mezzo al prato, dove ero andato a meditare sulla mia sorte. E nel sonno m'apparve una figura luminosa. Fu un sogno o una apparizione? Fu un sogno, ma così chiaro che quando mi risvegliai fu indotto a considerarlo come un'apparizione. Un'apparizione mi fu vicina e mi disse: hai torto di dubitare della tua sposa. Maria metterà al mondo un figlio per volontà di Dio. Lo chiamerai Gesù. Egli sarà il salvatore del tuo popolo. Torna, torna a casa, uomo giusto. Così riaprì la porta di casa e dissi a Maria: Maria, tu sei benedetta tra tutte le donne e sarà benedetto il figlio che nascerà da te. Il suo nome sarà Gesù. Sentiamo gli apostoli. Tu, Pietro, vieni avanti, racconta, e non tanto a me, ma al pubblico degli ascoltatori. Avanti. Una volta che la folla si accalcava sulla spiaggia del lago di Tiberiade, Gesù prese a parlare, e continuò finché si fece notte. Ecco, quel che Gesù faceva con slancio: parlare. La gente non se ne andava, rimaneva ad ascoltarlo per giornate intere, in piedi, al sole, senza mangiare, senza riposare, anche se non capiva. I veri miracoli di Gesù furono le parole, gli annunci, i messaggi. Alla sera, poi, gli andammo accanto e gli diciamo: «Maestro, smetti per un po' di predicare. La gente così potrà andare nei villaggi vicini a mangiare un boccone». Gesù sembrò accorgersi solo in quel momento che tutta quella folla aveva digiunato per ascoltarlo e subitamente si commosse. «Fateli sedere», ci disse. «Non mandate via, fateli riposare e distribuite quel che avete». Ma noi non avevamo niente. Un po' di pane e qualche pesce era proprio niente per tutta quella gente. E glielo dicemmo, ma lui rispose: «Date, date tutto quel che avete, date». E noi cominciamo a distribuire quei pani e quei pochi pesci. E i pani e i pesci non diminuivano, ma bastavano. E noi a dare sempre. Egli ci chiese: non hanno più fame? E noi gli diciamo di no. Ed egli, quasi tra sé, disse: beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i mansueti, perché erediteranno la terra. Beati coloro che piangono, perché saranno consolati. È l'unico modo per non rimanere impigliati nel misticismo e nelle favole. Voi dunque asserite di aver creduto fermamente ai miracoli. Lo confermate? Sicuro. E come mai allora tu l'hai rinnegato? E più volte, questo Gesù portentoso, che aveva fatto tanti miracoli sotto i tuoi occhi. Rispondi, l'hai rinnegato o no? Sì, l'ho rinnegato. E Tommaso? Ha creduto così poco a quei miracoli, ha detto: se non vedo, non credo. E difatti ha voluto toccare con le sue mani le sue ferite. È vero che dubitò, ma quando vide e toccò, si pentì d'aver dubitato e tornò a credere. Lui vide e toccò le ferite di un vivo, non di un morto. Di un risuscitato da morte. Come si poteva tradire, come si poteva rinnegare un uomo che crediamo veramente dotato del potere di fare degli autentici miracoli? Voi, i discepoli, siete la prova più schiacciante contro i presunti miracoli di Gesù di Nazareth. Non è vero. Non fateci dire quello che non abbiamo mai detto. Noi credemmo in lui. Noi crediamo nei miracoli che egli faceva. Ma perché allora non moriste tutti con lui, per lui? È vero. Non morimmo. Anzi, lo rinnegammo. Chi apertamente come me, chi con la fuga o richiudendosi in casa. Io dissi: non lo conosco, non l'ho mai visto, non sono dei suoi, non lo conosco, ma l'amavo sempre. Ma perché allora? Perché è così, senza alcun perché. Eravamo deboli. Perché non volete tener conto di questo? Che fummo deboli, tremanti, che avemmo paura, vili. Dei discepoli vili, d'accordo. Non eravamo degli eroi, e lo sapeva quando ci scelse. Ci prese la paura. Sì, avevamo tutti paura. L'abbandonai. Eppure, dovete credermi, gli volevo ancora bene. Credevo che era il Messia che aspettavamo. Ci scelse tra la gente comune. Disse, tu, tu e tu, venitemi dietro, seguitemi, così come siete, sì, ed eravamo niente. E quando lo vedemmo preso, picchiato, sanguinante, sconfitto, aspettammo da lui un gesto, una luce, una voce che venisse dal cielo e umiliasse i suoi nemici. Ma il miracolo non venne. Fu allora che ci prese la paura. Sì, avemmo tutti paura. E tu, Giuda? Io invece non lo credevo più. Quando lo consegnai in mano al Sinedrio, non avevo più alcun dubbio. Gesù di Nazaret non era il Messia che aspettavamo. Non era lui che avrebbe liberato il nostro popolo. Tutti mi considerano il più mostruoso dei traditori, lo so bene. Ma ci si sbaglia sul mio conto. Non sono stato un volgare traditore. Quando non ebbi più fede in lui, sentii che era il mio dovere darlo in mano alla giustizia, e lo feci. Se Gesù non era colui che avrebbe liberato il nostro popolo dalla servitù, diventava all'improvviso ai miei occhi il più tenace oppositore di questa riscossa. Sappiamo che foste l'amministratore, il tesoriere della piccola comunità. Il denaro era in mano vostra. Giusto, ma non sapete una cosa. Io non ero stato soltanto l'amministratore, ma il finanziatore. Credetti fin dal primo momento che quel piccolo gruppo cappeggiato da Gesù di Nazaret avrebbe potuto appiccare il fuoco della rivolta al nostro paese. Per questo dissi a loro: d'ora in poi mi occuperò io di farvi vivere. Il mio denaro è vostro. Per la liberazione di Israele era il patto. Questo dovete darvi una posizione di preminenza in seno al gruppo. Da principio sì, ma poi quando cominciarono a giungere le offerte dei seguaci non ebbero più bisogno di me, perché ero stato il banchiere, il mercante. Per questo non potevo intendere. Insomma, mi fecero capire che avevo fatto il mio tempo e non servivo più. Gesù no. No, allora. Gesù no, invece lui continuava a darmi fiducia e lasciarmi fare. Cercate di capirmi. Come amministratore non servivo più, come discepolo ero fuori strada, in quanto il regno predicato da Gesù non era quello che avevo sognato. Che dovevo fare ormai? Mi avevano isolato e mi sentii inutile. Vi dispiacque sentirvi all'improvviso senza amici? Sì, e mi accorsi che ero attaccato a loro anche col cuore, proprio nei giorni in cui palesemente cercarono di allontanarmi. Mi sarebbe piaciuto restare amico di Giovanni, ma lui mi pose il dilemma. Se abbracci senza riserve il messaggio di Gesù, resta, altrimenti vai altrove, Israele è grande. E mi disse: chi non è con me è contro di me. Allora sentii che era mio dovere impedire che Gesù seminasse ancora la confusione tra il popolo e chi lo ascoltava. E coi rappresentanti del Sinedrio concordammo la cattura. Il vostro fu un volgare mercato. Il mio non fu un mercato. Non vendetti Gesù per denaro. Il mio suicidio impiccato all'albero dovrebbe farvi almeno riflettere. Dovrebbe convincervi che c'era ben altro in me oltre al denaro. Se l'avessi saputo, stat sicuro che te lo avrei impedito con queste mani. Lo so, Pietro, tu l'avresti fatto, sei impetuoso e manesco, ma gli altri no. Tu solo però, tu solo lo mandavi a morte. No, io lo tradivo, è vero, io lo tradivo per 30 denari, però dovete crederlo. Io non sapevo che sarebbe stato messo a morte, crocifisso. Mi appello a Caifa. Ecco, la morte. Stasera siamo arrivati all'epilogo per vie assolutamente inconsuete. Caifa, era prevista la morte di Gesù? No, il Sinedrio non pensava di crocifiggerlo Gesù quando fece il patto col traditore. Come fu allora che si giunse a tanto? Ma ormai era troppo tardi. Perché troppo tardi? Lo stavate solo interrogando? Lo stavamo interrogando. Fu allora che ebbemmo paura. Paura di non poterlo condannare. Pensammo al popolo ebreo, alla sorte riservata al popolo ebreo, se quel Gesù fosse uscito di lì innocente e avesse ricominciato a predicare. Bisognava metterlo a tacere, Assolutamente. Ma come? Cercavamo qualcuno che ci aiutasse a far tacere, a far scomparire Gesù. Ma alla morte non pensavamo ancora. Fu per questa paura che lo mandaste a me? E fu la stessa paura che spinse voi a mandare Gesù da Erode Antipa. Per questo lo rinviai ad Antipa. Ma poco dopo mi ritornò al pretorio. Dovevo giudicarlo proprio io. Se Pilato lo avesse imprigionato, noi saremmo stati soddisfatti. Avremmo ottenuto lo scopo di isolare Gesù. Non aveva colpa alcuna per me, quel Nazareno. Voi volevate la sua morte. Non è vero. Quando mi rifiutai di condannarlo, voi non alzaste la piazza per forzarmi la mano? Dovevamo farlo. Eppure, io credo che la vera, profonda, sotterranea ragione comune a tutti sia la speranza che questo Gesù, che si proclama orgogliosamente figlio di Dio, dimostri di esserlo veramente lì, davanti a tutti, compiendo un miracolo, il grande miracolo. Tutti in fondo aspettavano, chiedevano, volevano un segno straordinario per potersi mettere in ginocchio e dire finalmente: ecco, è veramente il Messia. È questo che speravano tutti mentre urlavano: a morte, crocifiggetelo! È questo che speravano Giuda e Pietro quando lo tradivano, quando lo rinnegarono. Direi che tutti, col loro comportamento, spingono Gesù verso manifestarsi con un miracolo, con un segno dal cielo. Non è nemmeno questo che cercano. Non credo che cerchino un miracolo. Tu chi sei? La Maddalena, la peccatrice. I miracoli sono misteriosi e segreti, anche quelli che potrebbero avvenire qua. Non li vede che chi può e vuole vederli. Non capite che il vero miracolo era quello dell'amore. Io ho creduto. Cos'è l'amore? Lo devi trovare, scoprire da te, con la sofferenza. Ma se andiamo avanti così, finiremo per assolvere Gesù di Nazareth attraverso prove d'amore. Parli il difensore di Pilato. Di che cosa è accusato Pilato? Dice Caifa: se Pilato avesse difeso Gesù con tutta la forza che gli dava la legge, Gesù non sarebbe stato crocifisso. Se la legge romana, secondo cui Pilato doveva giudicare, fosse stata ferma nella difesa di Gesù, che per Pilato non aveva colpa alcuna, così come altre volte era ferma nel castigare dei colpevoli, Gesù non sarebbe stato crocifisso. Ora pensate, che cosa poteva rappresentare un messia ebreo per un uomo politico romano? Colpe non ne ha, è vero, eppure la città è in fermento per causa sua. Un agitatore, sia pure involontario. Domani, quando l'agitatore del regno delle anime sarà sparito, tutto rientrerà nell'ordine. Ciò che sarà buono domani non serve al politico, gli serve ciò che è buono oggi. Il suo tempo è il presente. Io non vi dico perché dovete assolvere Pilato, vi dico perché non potete condannarlo, che poi è lo stesso. Perché dovreste condannare in blocco tutti i giudici politici che credete che ognuno di loro non abbia nella coscienza un piccolo profeta condannato ingiustamente? E allora, se assolviamo tutti gli altri, perché non assolveremmo Pilato? Forse perché a lui capitò d'avere tra le mani il Redentore degli uomini? Di questo proprio non gliene si può far colpa. E chi lo dice? Quando si elimina un giusto, addirittura Gesù, si finisce sempre per rimettere in circolazione un Barabba, oggi come ieri. E non è una colpa, secondo lei? È la peggiore fonte del disordine. Forse ha ragione, ma allora condanniamoli tutti in blocco i giudici politici. Che cosa è risultato dalle testimonianze? Che Gesù era solo, incompreso da tutti. Ci fu il traditore, ci fu l'abbandono da parte delle masse al momento culminante. Voglio dire, o signori, che non furono soltanto Pilato, Caifa e il Sinedrio a volerlo morto, ma tutti, il popolo e Giuda e i discepoli, tutti vollero che Gesù morisse sulla croce. La sola differenza semmai è questa, che mentre noi giudei ci siamo assunti le nostre responsabilità, voi avete cercato di scansarla. Parli la difesa di Gesù. Difesa di Gesù. Ma chi? Chi ha detto una sola parola di accusa contro Gesù? Se non fossimo tanto inquieti, non faremmo quel che facciamo da tanti anni. Noi non riusciamo ancora a vedere quel che vorremmo. Noi siamo sempre, come si dice, tra l'incudine e il martello. Voi che credete in Gesù di Nazaret, abbiate un po' di pietà. Ecco, dico solo questo. Posso dirvi che non siamo mai arrivati, finora, ad una sentenza convincente. Non so però a che conclusione si arriverà stasera. Ci sono tante novità per aria. Rispettabili ascoltatori, tocca a me, come presidente, pronunciare la sentenza. Mi ero illuso che, continuando a tener viva la memoria di questo personaggio supremo e a domandare una testimonianza a voi, cristiani di oggi, non solo saremmo riusciti a trovare una soluzione ad un dilemma di un nostro antico e smisurato errore, ma saremmo perfino a suscitare una prova imprevista che ci avrebbe aperto una strada nuova per intendere quell'annuncio. E vogliate perdonarmi la sincerità con cui vi parlo, io ebreo, di qualcosa che può perfino offendere la vostra coscienza di cristiani? Devo anche prendere atto, dicevo, che il mondo cristiano non sembra aver abbracciato il messaggio di Gesù di Nazaret in modo da rivelarlo nella sua vita. Dico ancora che Gesù di Nazaret fu appeso alla croce per ordine del procuratore romano, perché con le sue magie aveva sedotto e sviato il popolo di Israele. Papà, aspetta. Cerca di trovare una formula diversa. Ma sì, è giusto. Non ripeta la stessa formula dell'inizio. Ma certo, oltretutto poi si esagera in questa finzione. Si esagera con questo processo. Ci si spinge troppo oltre. Che significa troppo oltre? Si spieghi, per favore. Si cerca di dare, certo inconsapevolmente e con le migliori intenzioni, parvenza di autenticità e di serietà a una discussione su argomenti di capitale importanza. Sono problemi questi che non possono essere presentati e dibattuti in questo modo. C'è pericolo che il pubblico se ne faccia un'idea del tutto sbagliata. Dopotutto si tratta di una rappresentazione. Che si pensasse che io biasimo questa riunione, mi compiaccio con questo pubblico che ha preferito questo raduno certamente austero ai tanti divertimenti frivoli che potevano più facilmente allettarlo. Ma ciò non toglie che il presentare problemi delicati che esigono studio e preparazione specializzata per essere discussi a gente impreparata possa costituire un pericolo. Costituisce anzi senz'altro un pericolo. Ma scusi, sa, ma vuol dirci quale preparazione si richiede per discutere questi problemi? Occorre forse un diploma, una laurea? Ce lo dica e non facciamo dell'ironia, della facile polemica. Niente ironia, d'accordo. Gli uomini che ascoltarono la prima volta Gesù, che preparazione avevano? Forse meno di quella che abbiamo noi, non le pare? O lei crede che la dottrina di Gesù sia come una scienza che ha bisogno di uno studio speciale per essere interpretata? Io non credo. Caro signore, lei dice ad essere d'accordo con me se intendo parlare di ignoranza. Ne farei proprio una questione di ignoranza, da una parte e dall'altra. Ma dopotutto lei chi è che si prende l'autorità di metterci tutti sotto accusa? Sembra una rivoluzione. Se le dà fastidio la parola rivoluzione, diciamo trasformazione. Ma non mi dà nessun fastidio, anzi, rivoluzione, proprio rivoluzione, rivoltare il mondo da così a così. Ci abbiamo mai pensato a quel che potrebbe succedere se davvero ascoltassimo quegli ordini? Amatevi l'un l'altro come fratelli. È un ordine. Nemmeno sulla ricchezza ci sono eccezioni. Da tutto ai poveri. Tutto. Vieni e seguimi. Non dice dai tutto, meno un po', meno quel che ti serve. No, tutto. E sulla pace. deve essere la pace intera, sempre, e basta. Magari. È un'utopia bella e buona, con i tempi che corrono. Perché utopia? Se nessuno ci ha ancora provato. Quel che succede con le guerre, con le violenze, con le rapine, con i piani politici, non le chiamiamo utopie, no. Le chiamiamo realtà. E lo sappiamo tutti, quello che è qualcosa di mostruoso, di veramente mostruoso. Quello che succederebbe con l'amore, con la pace assoluta a tutti i costi, non lo sa nessuno. Noi non lo sappiamo ancora perché in 2000 anni di storia cristiana è un'esperienza che non è stata fatta. E forse perché tutti abbiamo creduto che fosse un'utopia e si è preferito ragionevolmente restare dentro la realtà. Ma lei, loro, sono contenti di questa realtà? Io no. Ho finito. Ma lei, scusi, chi è? Dal momento che volete proprio saperlo, sono un sacerdote. Contestatore del dissenso. Si capiva che c'era sotto qualcosa. Pare impossibile. Li trovi dappertutto. E adesso non li riconosci nemmeno. Sono vestiti come noi. Sono sempre una forza, bisogna riconoscerlo. Purché non si giochi a carte scoperte, vogliamo un contraddittorio. Silenzio, per favore, silenzio. Reverendo, noi non potevamo supporre che una personalità come la sua potesse celarsi in mezzo al nostro auditorio. Ne siamo sinceramente lusingati e la preghiamo di rivolgere da qui, se crede, quelle parole che ritenesse più convincenti. La prego. Non ho granché da aggiungere a quanto ho già detto. Diciamo che si sta cercando insieme di ricostruire i fatti come si svolsero. Non si può più accendere quel fuoco. Si è perduto anche il senso misterioso delle antiche preghiere e non si trova più nemmeno il luogo esatto. Però, se riusciremo a ricostruire i fatti come si svolsero, quel che chiediamo si compirà ugualmente. Come si svolsero i fatti per noi uomini di oggi? Com'è oggi la verità di allora tramandata di generazione in generazione? Dove cercare la verità? Ah, non vorremmo sentire una predica adesso. Non siamo qui per questo. Facciamo le nostre discussioni per bene, cioè con calma. Cerchiamo di stare calmi, ve ne prego. Calmissimi staremo. Ma non per questo ci sarà impedito di fronteggiare la presa di posizione di chi è balzato in maniera così inaspettata al centro di questo processo di Gesù. A meno che non facesse già parte della rappresentazione, nel qual caso mi siedo subito e vi dico bravissimi, recitato alla perfezione. È una brusca impennata che il dibattito ha preso del tutto naturalmente. Non vorrei che il signore che ha parlato un momento fa ritenesse questo posto usurpato. Voi sostenete di aver messo a morte un uomo che si illudeva e si vantava di essere figlio di Dio. Continuate a credere di averlo condannato giustamente. Il vostro cosiddetto processo ha sorvolato la questione principale. Gesù era o no il Salvatore, il vero Messia? Voi avete risposto no, non era perché non poteva essere. Dobbiamo cominciare col chiedere come mai in un mondo che si dice e si crede cristiano non si vede o si vede troppo pallidamente la presenza di questo Cristo. Basta che ci si guardi attorno. Guardiamo piuttosto entro le cose, entro noi stessi. Guardiamo pure, se vuole. Lei le trova cristiane le opere, diciamo, pure le intenzioni di questo mondo? Mi accontenterei, vede, che soltanto le intenzioni fossero cristiane, che cioè si partisse dall'amore. L'uomo non cambia. È questo il fatto spaventoso, disperante, che rende questo processo perduto per la causa di Cristo, perduto senza possibilità di appello. E i santi? Appunto, i santi. Sì, un gruppo sparuto a confronto delle moltitudini pazze, cieche, ottuse che si sono succedute nei secoli. Se ho ben capito, sembra che se ne faccia addirittura una questione di quantità, una specie di bilancio numerico. I santi imitatori eroici di Cristo e come lui ammirabili, d'accordo, ma come lui regolarmente contraddetti e traditi dai loro discepoli. Qui si è continuamente perduto. Trova proprio che si sia continuamente perduto? Glielo chiedo, badi bene, senza alcuna ironia. Ad un Cristo, uomo sublime, siamo tutti pronti a fare l'elogio. Ma sia ben chiaro che il suo messaggio e le sue speranze furono crocifissi e morirono con lui. Risorsero con lui, quando lui risorse dai sepolcro. Ah, questa è una frase d'effetto. Lei sa bene quanto me, meglio di me, anzi, che il messaggio di Cristo, il vero messaggio di Cristo, quello autentico, quello evangelico, sta morendo nella vita degli uomini di oggi. Vedo anch'io quel che vede lei, signore, ma vedo anche quel che forse lei non vede. Che quei fermenti che lei crede siano stati crocifissi con Cristo si sono sparsi da allora per la terra e hanno inquietato gli uomini e li inquietano sempre di più. Oggi come mai, direi. Questo vedo io. Vedo perfino che inquietano anche lei. Voi, tutti voi, nessuno escluso. Gli ebrei, un po' commedianti. Il prete che non si riconosceva se non l'avesse detto. E lui ha studiato da prete e adesso fa la parte di Giuda. Tutti voi potete condannarlo o assolverlo, Gesù di Nazareth. Potete fare quello che volete. A me non me ne importa niente. Per me è il Salvatore e basta. Ma per tutt'altri motivi da quelli che avete detto, proprio tutt'altri. Parlo per me, si capisce, soltanto per me. E non c'entrano nemmeno i miracoli, sapete, benché io creda ai miracoli, tanto che ne sto sempre aspettando uno. Lui non se lo sognava nemmeno che io potessi prendere fuoco per Gesù. Si capisce, ha creduto che io sia soltanto come mi ha veduto. Ti accorgi che sono un'altra? E dove vuoi andare adesso? Non vuoi sentire? Mi ci hai portato tu qua e adesso ci stai. Io devo dire che non ne avevo proprio nessuna voglia, ma adesso che ci sono, mi piace tanto quello che succede. Non mi sono mai appassionata tanto in vita mia. Scusatela. E tu credi che io non l'abbia capito che avevi bisogno di parlare e basta? Io d'altronde non capivo quasi niente, ma ci provavo gusto. Se non ci fosse stato lui, sapete, io, a parte che non sarei qui, ma non so dove. Non mi sarei mica alzata a prendere fuoco per Gesù. No, davvero. Reverendo, ma non le sembra che in questa strenua difesa si mescoli esageratamente l'elemento sentimentale? E che vorrebbe dire lei con questo discorso? Che noi ci si innamora di Gesù? Lei non capisce niente, mi scusi. Come ha ragione. Gesù non la guardò nemmeno la Maddalena. Non la guardò come un uomo guarda sempre una donna. Almeno credo sia andata così. Ma io sono sicura. La Maddalena deve essere rimasta ferita da principio, proprio perché Gesù sembrava non si fosse nemmeno accorto di lei. Che sei venuto a fare? E lui, a rimettere in libertà gli oppressi. E io che c'entro con gli oppressi? Tu sei più che oppressa. Sei una schiava di te stessa. Gli vai dietro anche in capo al mondo a uno che ti dice così? Lei dunque intende difendere Gesù? Perché? Non si era capito? Sì, ma saprebbe portare una testimonianza, una ragione sua, ben inteso. Boh, io non ho ragioni speciali. Avrà perlomeno le ragioni del cuore. Le ragioni del cuore. Sì, c'è una ragione intima, mia. Vede, la gente come me, se non avesse la certezza che Gesù è venuto per capire, perdonare e salvare anche noi, sarebbe disperata. Non voglio che lo condanniate, nemmeno per gioco, qui, stasera. Non provateci nemmeno. Io dico di no. C'è un momento della nostra vita in cui ci rimane solo lui a difenderci, ad amarci, a donarci bontà e speranza. Lo ripeto, non lo condannate, non provateci nemmeno. Io dico di no. Ma che condannarlo? Dico di no anch'io. Non facciamo troppa confusione. Avanti, parli lei che aveva qualcosa da dire. Si alzi, venga avanti, si faccia vedere. Io, veramente, non ho niente di speciale da dire. Mi oppongo anch'io, ecco. Ma perché si oppone anche a lei? L'avrà un perché? Un perché ce l'avrei. Vede, ognuno difende la propria posizione. Si potrà dire che non sono disinteressato a mettermi dalla parte di Gesù. È verissimo. Meno male. Io non sono disinteressato. Lei, mi scusi, chi è? Vede, io sarei come il figlio prodigo. Vorrei soltanto sapere perché crede di essere come il figliol prodigo. Non vorrei sbagliarmi, ma non è il figliol prodigo quello che se ne va di casa portando via i soldi del padre? Sì, il figliol prodigo vuole la sua parte. Anch'io me ne sono andato con i denari di casa. Ho rubato a mio padre e ai miei fratelli. C'era anche la dote di mia sorella. Pensavo, i genitori non mi capiscono. Fratelli e sorelle badano solo ai poderi e al capitale. Così sono scappato di casa. E loro sono stati zitti. Non mi hanno rincorso. Non mi hanno cercato. Denunciato. Niente. Ho avuto vergogna. Ho ancora vergogna. Per piacere, vada avanti. Deve esporci le sue ragioni. Ma si immagini lei che mi decidessi un giorno o l'altro a tornare a casa. Perché non torna? Magari, troppo facile. Ma lei ci ha detto di non aver ricevuto nemmeno un rimprovero. Non vuol mica dire, se tornassi, e i miei fratelli e mio padre mi chiudessero la porta in faccia, non avrebbero mica torto. Ho bisogno d'un padre che un bel giorno mi perdoni e mi accetti in casa sua, così come sono. Non toccate Gesù Nazareno, non toccatelo. Ve ne prego anch'io, non toccatelo. Io chiedo al sacerdote, quel che succede qui da qualche momento è indubbiamente al di fuori di ogni previsione, di ogni aspettativa. Come lo spiega lei? È la coscienza cristiana che si risveglia un po' in tutti, nelle forme più impensate, e reagisce in difesa di Gesù. Lo vedo bene. Non supponevo che molti di voi nascondessero nel cuore una fede così tenace in Gesù di Nazareth. E quelle poche volte che ci pensiamo, ci vergogniamo. Sì, sì, ci vergogniamo. Ci vergogniamo di Gesù detto il Nazareno. Ecco, secondo me, la ragione perché non cambiamo il mondo, noi almeno. Come facciamo a cambiarlo se non abbiamo nemmeno il coraggio di dire che lo conosciamo? Io, perché sono capitato qui stasera, non lo so davvero. Perché? È il timore. Non si ha mica il coraggio di imbattersi frequentemente in questo Gesù, detto il Nazareno. Io preferisco stare un po' alla larga. Io non so adesso chi me l'abbia dato questo coraggio. Chi ci sente adesso? Me e la signora. Sembriamo dei missionari, e invece siamo quello che siamo. Siamo niente. Proprio niente. Reverendo, io la capisco la loro testimonianza, il loro controsenso di essere e di non voler essere, praticamente di essere cristiani a loro insaputa. Noi non abbiamo imitato Cristo, non ci comportiamo nella realtà, nella pratica di tutti i giorni, come si sarebbe comportato Cristo. Non le pare che sarebbe questa la strada veramente cristiana, la rivoluzione vera? Bello! Ma tenga presente che Cristo faceva i miracoli. Se credessimo veramente in Lui, smuoveremmo le montagne, la fede. E l'amore, e i fatti, e le opere. La fede, l'amore, e le opere. Dovremmo essere santi. Ma santi non siamo. Non possiamo essere tutti santi. Per questo non abbiamo ancora capovolto il mondo. L'abbiamo appena un po' mosso, un po' inquietato. Scusate, posso parlare anch'io? Vedo che parlano tutti. Si accomodi. Non dovete dire, signori, che il mondo è rimasto quello che era. No, no, è un grosso sbaglio. Voi, ho capito, vorreste addirittura vederlo sui giornali, è scritto grande così. Il mondo stanotte è stato capovolto dall'amore di Gesù, una specie di bomba atomica. No, no, no, no, no, non c'è niente da ridere, signori. Il mondo ha un modo suo di camminare, di capovolgersi, e bisogna avere occhi per vedere e stare attenti, prudenti. E allora? Un momento, perché anch'io voglio dire quello che hanno già detto. Non ce lo dovete toccare, Gesù. Noi siamo poveri e semplici. E Gesù lo sentiamo, lo conosciamo, chiedo scusa, come se fosse uno dei nostri. E allora non dovete toglierci questa sola cosa che abbiamo, che per noi è tutto Gesù. Gesù è tutto per noi. Io sono una madre, lavoro qui, faccio le pulizie, prendo proprio 2 soldi e mi danno un buco di casa. Grazie, signora, abbiamo capito. Ma la lasci parlare. Ma sì, dica, voleva dire ancora qualcosa. Sono una madre vedova con un figlio morto. Le madri alla mia età non dovrebbero lavorare se avessero ancora un figlio. Io ho ascoltato tutto, non ho capito tutto, però la madre, la Madonna l'ho capita. Mi perdoni, sa, io mi sono permessa di venire avanti così pubblicamente perché non capita mai di incontrarci con la madre di Gesù faccia a faccia, così come stasera, anche se è una finzione, ma fa piacere lo stesso. Io vorrei dire 2 parole sul mio caso. Dica, l'ascoltiamo. Grazie. Anche mio figlio un bel giorno se ne andò. I figli, buoni e cattivi, spesso se ne vanno. È un destino. Non mi disse nemmeno dove. Non portò via niente perché non c'era niente da portar via da noi. Quando si rifece vivo, era un altro uomo. Io non lo potevo capire più. Rimase lì, in casa, senza far niente. E diceva certe parole, coglievo certe frasi. Oh, che discorsi, Dio mio! E non potevo capire. E quando si comincia a non capire più i discorsi dei figli, è finita. Si deve star zitti e aspettare. E poi una notte battono, vengono a prenderlo perché dicono è un sovversivo. Non domandatemi se era di questi, di quelli e di quegli altri. Non importa proprio saperlo. Che ha detto? Che ha fatto? Quelle solite domande. Portato via, scomparso, l'unico figlio. Un momento fa c'era, dormiva, dopo un momento non c'è più. Voi signori del processo, voi prima avete parlato dei miracoli, ho sentito, ci sono, non ci sono, sono veri, sono falsi, io non lo so se ho capito, ma posso dire che a me è successo proprio un miracolo. Io ho detto prima che da un certo momento in poi mio figlio era diventato come uno sconosciuto per me. Ma ecco che dopo la morte è resuscitato dentro di me. Me lo sono sentito vicino, proprio come se fosse vivo e avesse confidenza in sua madre. Parla, dice quello che per anni non ha mai detto. Non è una favola, è una cosa vera, come se ci toccasse, una certezza. Siate buoni, signori giudici, siate un po' buoni verso il Salvatore e verso di noi. Buoni, vi prego. Fu io a denunciarlo, perché venissero a prenderlo. Non vostro figlio, ma è lo stesso, fermatevi a sentire anche voi. A quel tempo eravamo a Monaco e celebravamo il processo di Gesù. da più giorni. Erano settimane che in quel vecchio palazzo ebrei e cristiani discutevano su Gesù di Nazareth. Fu in quei giorni che io pensai di liberarmi di Daniele. Mi fu facile denunciarlo, lo indicai come Giuda da una finestra del palazzo. È lui quello che passeggia nel cortile. Debbo confessare che non lo facevo soltanto per gelosia d'amore, come si potrebbe pensare. Denunciavo in Daniele un ebreo che s'era già quasi fatto cristiano. Credevano di colpire un capo ebreo e io gli mettevo fra le mani il primo di noi che s'era già fatto in cuor suo cristiano. Quando facciamo il male, pensiamo che si fermi lì, fin dove l'abbiamo voluto, entro quei confini. Invece quel male che abbiamo voluto, che abbiamo smosso noi, cresce. Non lo controlliamo più. Ci travolge, diviene irreparabile. Non invoco attenuanti, accusatemi pure per la sua morte. Però io vi dico che non volli la sua morte, ma soltanto la sua cattura. Per me nessuno avrà una parola di perdono. Nessuno dovrà averla, non la voglio. Soltanto la signora delle pulizie forse potrebbe trovare la parola giusta. Basta con questo processo, interrompetelo e chiedete scusa agli ascoltatori. Ritiriamoci a parlare tra noi. No, questo processo deve giungere alla sua conclusione. Pronunceremo la sentenza, ma vorrei chiedervi prima, chi era? Chi è? Chi è per voi Gesù di Nazareth? È certamente il figlio di Dio. È il figlio dell'uomo. Il primo e l'ultimo amore, il vero amore. È venuto non per giudicare, ma per salvare. Se vedrò uno che mi viene incontro e mi butta le braccia al collo e mi dà un bacio, io saprò che è lui. Mi consola, sapete, tutti i giorni, qui, sola, in questo posto vuoto. Lui c'è e mi dice, coraggio, verrai con me in paradiso. Mi ha perseguitato per anni, mi ha accecato. Ora ho visto. Anche tu, Gesù di Nazareth, sei un ebreo morto anche per noi. Siamo tutti uguali. Perché non lo gridate forte, dovunque e sempre, quel che avete detto stasera? Io debbo ormai proclamare alto e al cospetto di tutti che non so ancora se Gesù di Nazareth sia stato veramente quel Messia che noi aspettavamo. Non lo so, ma è certo che lui solo, alimenta e sostiene da quel giorno tutte le speranze del mondo. E io lo proclamo innocente e martire e guida. Salvatore del mondo, risorto da morte. Talvolta ho l'impressione di sentirlo vicino, in mezzo alla gente. Ti volti, lo cerchi, ti sei sentito chiamare. Ti passa vicino, non visto. Allora, bisogna mettersi a spiare il suo passaggio. Continua a cercarci in questo nostro mondo. L'aveva detto. Io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo. Forse è ancora tra noi, vivo. Se due di voi si riuniranno nel nome mio, anch'io vengo e resto in mezzo a voi. Resta in mezzo a noi, fino alla fine del mondo. Ecco, è finito. Il nostro processo è veramente concluso. Grazie a tutti voi e buonasera. No, Davide, figliolo, dove vai? No, non fuggire. Non aver paura, figliolo. Il giudice vero è lui, Gesù. Avete ascoltato la riduzione radiofonica del Processo a Gesù di Diego Fabbri, riduzione curata da Paola Storini, che ha recitato insieme a Gesuina Maccari, Antonio Ceccato, Giorgio Ceron, Maurizio Mattiazzo, Annalisa Comellato, Giampaolo Marchiori, Antonella Stefanon, Giovanna Toniolo, Roberto Torrisi.